così scegliere che ci sia luce nel disordine. È un racconto oltre le pagine. Perché adesso sai la verità, questa